La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 24 di febbraio, sono le 16:31 primi 10 secondi, grazie per l'ascolto in diretto in podcast, vi ricordo l'indirizzo della versione di Oscar, @radio24.it. Ieri la puntata che abbiamo fatto sulla dichiarazione di guerra, non dichiarazione di guerra dell'Italia, cioè siamo per l'ennesima volta entrati in un ambito di azioni militari senza un passaggio parlamentare, ha, devo dire, provocato, vi ringrazio, un bel po' di mail, ho cercato di rispondere a tutte. La mia non è una critica unilaterale, è una presa d'atto, come devo dire. Molti hanno spiegato che in realtà il Presidente del Consiglio ha detto più volte che noi siamo in guerra con ISIS e con Daesh, però sapete perfettamente che fino a questo momento avevamo solo 4 velivoli Tornado per ricognizione elettronica nella sola Iraq e non in Siria. Adesso iniziano le operazioni invece di bombardamento in Libia, americani da basi che sono in Italia, anche se sono della Marina americana, non è la stessa cosa. La mia opinione era che era meglio capire prima che cosa ci aspetta, quali sono i punti condivisi di un assetto della Libia, con chi, con quali fazioni, contro quali altri, non lo so, vedremo. Io credo che l'esperienza degli anni alle nostre spalle, dalla guerra post-jugoslava in poi, Iraq, Afghanistan, avrebbe dovuto insegnarci che è meglio avere grande chiarezza prima e non dopo, quando scoppiano le polemiche. Però può essere che mi sbaglio, non è una critica pregiudiziale, è semplicemente preoccupazione per il nostro paese che si comporta così e poi lascia da 4 anni, ricordiamolo, i nostri 2 marò in India, quindi è un paese un po' strano, come devo dire, ecco, cioè, meglio avere chiare le regole d'ingaggio, no? Ecco, detto questo, comunque sto dialogando ancora con alcuni di voi su questo, perché alcuni hanno detto no, ma questa è una critica al governo, come è stato pregiudiziale. No, no, perché figuratevi, io poi di tutto sono sospettabile tranne che di volere la mano leggera contro ISIS Daesh. Dico solo che ci vorrebbero delle regole chiare e noi non le abbiamo perse da qualche decennio alle nostre spalle. Vi ricordate quando sembrava che i nostri aerei nella guerra post-Jugoslavia servissero solo per ricognizione e invece poi dopo apprendemmo che facevano anche le operazioni militari vere sul terreno? Ecco, per dirne una, cioè noi, i governi ritengono sempre che è meglio non dare troppa pubblicità a quello che si fa. Devo dirvi tra l'altro che il generale Mini stamattina, intervistato da Repubblica, alla risposta che abbiamo fatto alla domanda che avevo rivolto ieri ai nostri 2 ospiti, ci sono già forze speciali italiane, e sapete che i nostri ospiti si sono attenuti alla versione ufficiale della difesa, no, non ci sono in Libia, mentre pare ci siano francesi, britannici e forse anche già americani. Generale Mini stamattina, andate a vedere sul sito di Repubblica, a questa domanda risponde: insomma forse sì, ecco. Allora, detto tutto questo, andiamo al tema invece della giornata, che si deve a un tema a me sta molto a cuore, non so a voi, vedremo se vi va di telefonare all'800 24 00 24. È un tema rilanciato oggi dalla stampa, ma è un appello che viene rilanciato dalla stampa, che viene lanciato in forma di protesta da diverse associazioni, in particolare dall'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Ed è un'associazione secondo me benemerita, perché fa riferimento a questa associazione molti dei centri antiviolenza contro le donne sul territorio italiano. È una piaga secondo me che noi ci portiamo dietro per una questione risolta di proprio culturale tra uomini e donne. Sapete che in famiglia avviene la più alta percentuale di delitti contro la persona e di omicidi, eh? Questa è la realtà dell'Italia, che poi dice che la famiglia è sacra. Sì però questo appello è stato lanciato perché nella legislazione è avvenuta una cosa di cui non si riesce a capire con quanta consapevolezza o quanta inconsapevolezza, ma riguarda quello che fino a pochissimo tempo fa, fino a pochi giorni fa, era un reato. Quindi si andava a procedimento penale, l'aborto clandestino. Allora, siccome il governo ha proceduto a una raffica di depenalizzazioni, in generale io ho un giudizio positivo, però nel decreto con il quale sono state disposte le depenalizzazioni e quindi il passaggio a sanzione amministrativa di diverse fattispecie, levandolo dal codice penale, nessuno, quasi o comunque vedremo se qualcuno in Parlamento ha fatto troppo caso al fatto che tra quelle fattispecie ci fosse anche l'aborto clandestino, che fino a quel momento appunto era reato. E poiché per questa fattispecie come altre, con una gradualità che dipende dalla gravità della fattispecie, così è stata graduata anche la sanzione con cui a quel punto si punisce quello che da reato diventa illecito amministrativo, per l'aborto clandestino le vecchie 100.000 lire, che oggi sarebbero poco più di 50 euro, disposte dalla legge 194, quella con cui appunto si introdusse e si disciplinò nel nostro ordinamento l'aborto terapeutico, e invece è stata elevata a un'ammenda che va tra i 5.000 e i 10.000 euro. Non si sa se i parlamentari hanno detto vabbè, ma comunque è chiaro che l'aborto clandestino mette a rischio la vita delle donne, eccetera, eccetera, quindi una somma pesante. Se non che, se questo è stato un ragionamento, è un ragionamento sbagliato, per così dire, anche se può apparire intuitivamente giusto. E ci facciamo spiegare da chi ha, a nome appunto di tutti coloro che sono associati in questa rete associativa di donne antiviolenza, cioè da Titti Carrano, presidente di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, che appunto è tra le firmatarie di questo appello rivolto direttamente al Presidente del Consiglio, immagino nella convinzione che non si siano resi ben conto dell'effetto vero di questa norma di depenalizzazione. Grazie a Titti Carrano di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera, grazie a voi. Allora, perché l'effetto vero lo spieghi un pochino a chi è in ascolto e magari dice, boh, ma qual è il problema? Invece che reato penale è una fortissima sanzione amministrativa. E invece che cosa vuol dire in concreto? Allora, lei ha spiegato molto bene prima, per cui non voglio ripetere. Con questo decreto legislativo sono state depenalizzate una serie di reati. Ora, in questo caso, per l'interruzione volontaria di gravidanza, un aumento della sanzione amministrativa, e parliamo dai 5.000 ai 10.000 euro, è una sanzione questa che occulta il vero problema che oggi esiste. Cioè induce a tornare alla clandestinità, per così dire. Certo, non solo induce alla clandestinità, ma le donne pagano proprio sulla loro vita e la loro salute, perché chiaramente con una sanzione amministrativa così alta tante donne non si rivolgeranno alle strutture sanitarie qualora ne avessero bisogno dopo aver praticato l'interruzione volontaria di gravidanza, e quindi si corre il rischio davvero di aumentare la clandestinità, perché, la salute. Chiariamo bene, signora Carano, la sanzione non si applica, a dire la verità, come io stesso avevo pensato, la mia in questo caso stupidissima ingenuità, a coloro che mettono in opera l'aborto clandestino, cioè quelli che prima del referendum e della norma erano insomma i cucchiai d'oro eccetera eccetera. Non si applica a loro, si applica alle donne che lo praticano anche. Allora, si applica nel momento in cui si opera si ricorre all'interruzione volontaria di gravidanza fuori dalle norme previste dalla legge. Ora, in questo caso noi dobbiamo tener presente che in Italia il problema serissimo e grave è l'elevata percentuale dell'obiezione di coscienza, non solo dei ginecologi, ma anche di strutture pubbliche. Qui in Lombardia ne sappiamo qualcosa, a dire la verità. Non è solo in Lombardia, purtroppo. Quindi in questo caso aumenta il rischio, ecco, per le donne, perché non trovano strutture sanitarie a cui rivolgersi. Poi dobbiamo anche tenere presente che oggi, anche tramite il mercato clandestino... Aspetti, qui Olio, faccio un inciso per chi in ascolto, perché non vorrei ferire la convinzione di nessuno. L'obiezione di coscienza nel nostro ordinamento è prevista per il personale medico, eccetera, eccetera, non solo medico, che appunto nei confronti dell'aborto terapeutico come disciplinato nel nostro ordinamento, eccetera, eccetera, eccetera, però mantiene una convinzione contraria. Qual è il problema, però? Che Se non si garantisce comunque una pervasiva presenza territoriale della garanzia dell'offerta del servizio, e in alcune regioni d'Italia l'obiezione di coscienza finisce per essere così diffusa, anzi, tra virgolette, anche un po' spinta dai vertici delle aziende sanitarie, che questa territorialità diffusa non è offerta, ecco che si crea un problema serio. Scusi, perché non è detto che sia chiaro a chi non certo, si occupa del problema. Certo. Tra l'altro dobbiamo anche ricordarci che un paio di anni fa il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa ha fortemente condannato l'Italia, perché ha riconosciuto la mancata applicazione della legge 194, proprio in violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi alle donne che intendono interrompere la gravidanza, proprio a causa dell'elevato e crescente numero dei medici obiettori di coscienza. Quindi questo svuotamento, che è uno svuotamento che è avvenuto in modo progressivo negli anni, chiaramente costringe le donne di ogni età, di ogni origine, a peregrinare da una città a un'altra, o da una regione a un'altra, o addirittura anche in un altro paese, proprio per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza, con il rischio naturalmente di aumentare il numero di clandestinità, con rischi enormi per la propria salute, oltre chiaramente a negare proprio la loro libertà di scelta e l'autodeterminazione delle donne. Ricordiamo, perché poi voi avete fatto delle cifre, e siccome torna a citarle adesso, perché la stampa le rilancia, ma tenete conto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che ci sono delle regioni italiane in cui la percentuale di obiezione di coscienza arriva a superare l'80%, cioè è così in Campania, in Basilicata siamo al 90%, è così in Molise 93%, in Lombardia è altissima, siamo al 69%, cioè non è un fenomeno, per così dire, trascurabile, è diventato una caratteristica di fondo di questa, tra virgolette, mancata offerta di adempimento di quanto prevede la legge 194. Qui non stiamo facendo, perdonate perché vedo già dagli sms che arrivano al 3492386666, non stiamo facendo propaganda pro-abortista, ma perché dovete, ogni volta torniamo all'età della pietra? No, stiamo parlando del fatto che la presenza di una mancata garanzia sul pieno adempimento della legge che fa parte del nostro ordinamento, A, B, più, forse non avendoci pensato, adesso chiedo a Titti Carrano se è convinta che ci hanno pensato oppure se ne sono proprio scordati nell'esame parlamentare, l'effetto che chiaramente può essere indotto da una sanzione tra 5 e 10 mila euro, pensate solo, non lo so, alle giovani le cui famiglie sono ancora in famiglia, che già premono in caso di cose di questo genere, per di più una sanzione, si finisce i diritti di nuovo a fare un aborto clandestino. Ma secondo lei, Titti Carrano, ci hanno pensato in Parlamento, oppure nella lista di tutti i reati da depenalizzare nessuno ci ha pensato? Ma secondo me non ci hanno pensato, ma non ci hanno pensato perché purtroppo le politiche di genere in Italia sono completamente paralizzate, non c'è un riconoscimento dell'autodeterminazione della libertà delle donne. Se noi pensiamo che col nuovo rimpasto di governo non si è ritenuto di nominare una ministra per le pari opportunità, proprio per coordinare tutti gli interventi che sono necessari, il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio è completamente fermo e privo di direzione, quindi affidato veramente alla ottima volontà dei funzionari che sono lì presenti, ma manca una guida politica. Cioè, diciamo, non è stata politico considerata delle priorità dei guai italiani, no, che deve affrontare il governo Renzi, come una vera, no, priorità. Insomma, sì, si fa l'ordinaria amministrazione, ma poco più. Adesso, siccome è con noi anche, e io la ringrazio di questo, la vicepresidente del gruppo PD a Montecitorio, Alessia Morani. Grazie, buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio a voi. Allora, le faccio immediatamente la domanda, poi dopo l'interruzione che faremo tra un po' per il traffico continuiamo a ragionare sia con lei che con Titti Carrano. Ma ve ne siete resi conto, oppure nella lista lunga dei reati da depenalizzare nessuno ha avuto il tempo e il modo di rifletterci, onorevole Morani? Allora, intanto, come dire, credo che la depenalizzazione che abbiamo fatto sia assolutamente sacrosanta, poiché sono anni che sentiamo ripeterci che nel nostro ordinamento abbiamo i tribunali penali sovraccarichi di reati cosiddetti inutili. Sono d'accordo. Solamente con sanzioni pecuniarie, quindi abbiamo, attraverso una delega che abbiamo insomma approvato oramai da tempo, poi i successivi decreti approvati dal governo, l'ultimo appunto questo di gennaio, depenalizzato tutta una serie di fattispecie. Giustissimo. Tra, tutte queste fattispecie che abbiamo depenalizzato rientra anche il comma 2 dell'articolo della legge 194 che prevede il reato di aborto compiuto in violazione appunto della legge 194. Sì. Perché mi sono soffermata sul comma 2? Perché noi l'abbiamo depenalizzato limitatamente alla posizione della donna, poiché coloro che praticano aborti clandestini sono ancora sanzionabili, esatto, da un punto di vista penale. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che la donna dovesse essere distinta come posizione rispetto a quella del medico che le procura un aborto, del medico nelle migliori delle ipotesi. Ecco, nella migliore delle ipotesi. Sono medici che praticano aborti clandestini. E abbiamo distinto la posizione della donna dalla posizione di colui che pratica queste nefandezze, chiamiamole così. Quindi questo credo che sia un punto assolutamente condivisibile rispetto alla depenalizzazione che abbiamo operato. Ora, io ho sentito legittimamente la signora Carrano criticare il quantum della cosiddetta sanzione amministrativa che noi abbiamo ha soprattutto l'effetto che può indurre. Allora, io credo che l'effetto che è stato paventato, cioè quello di far aumentare i reati e gli aborti clandestini, cioè. non credo che sia collegabile ad una depenalizzazione, casomai il contrario, poiché fin tanto che una pratica è considerata un reato probabilmente ha l'effetto che dicevate voi, la depenalizzazione dovrebbe sortire l'effetto opposto. Dopodiché, rispetto al quantum di questa sanzione amministrativa, che io naturalmente è da 5.000 a 10.000 euro, sì, ma vorrei rappresentare agli ascoltatori che però con la legge 689 dell'81 possiamo ridurla fino a 3.000 euro ed è anche rateizzabile. E comunque dico anche che poiché si tratta di una pratica in violazione di una legge sacrosanta che è la 194, la sanzione deve avere un minimo di effettività. Quindi lei dice, ho capito, aspetti un secondo. Un effetto comunque di deterrenza, perché è una pratica illegale. Cioè ricordiamo, è una pratica illegale, però allora lei dice, no, ci abbiamo pensato, ma questa è la logica. Allora ci fermiamo per un minuto per il traffico e poi sentiamo di nuovo da Titti Carano e da lei che cosa, di fronte a queste considerazioni, quindi non è vero che non ci hanno pensato Titti, e vediamo che cosa dice chi invece si appella al Presidente del Consiglio per cambiarla questa sanzione amministrativa e poi sentiamo le controdeduzioni di Alessia Morani. Tra un minuto, strade. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati qua in diretta, stiamo parlando di aborto clandestino, dell'effetto, secondo un appello lanciato dalle donne in rete contro la violenza del Presidente del Consiglio, che la depenalizzazione per la donna che ricorre a un aborto clandestino, non per chi lo pratica, quello resta reato, ma la depenalizzazione della donna che lo pratica con la sanzione amministrativa di 5 a 10 mila euro, per chi lancia l'appello, questo può avere un effetto negativo, opposto a quello che si immagina, cioè di incentivare per soggetti deboli l'aborto clandestino invece che di ottenere appunto l'effetto opposto, cioè di ricomporre tutto, ripraticare tutto nell'ambito della legalità. Avete sentito l'opinione motivata del vicepresidente del gruppo PD alla Camera, onorevole Alessia Morani, che dice no, non ci abbiamo pensato, ma la logica è appunto di distinguere, però resta poi, deve rimanere un illecito, perché è la violazione di una legge. Che dice Titti Carrano di fronte agli argomenti dell'onorevole Morani? Allora, il fatto che non sia più reato per la donna va benissimo, non è una contestazione sulla depenalizzazione. Certo. Il problema è proprio la scelta politica legislativa che è contraddittoria, perché non si tratta più di un delitto, ma c'è una sanzione amministrativa e per di più aumentata anche notevolmente. Però dobbiamo anche dire che già prima del 78 le donne purtroppo erano costrette a ricorrere all'aborto clandestino rischiando pene anche molto severe. Quindi l'aggravamento pecuniario oggi ricade sulla salute delle donne, è questo inevitabile, perché questa politica legislativa non tiene conto invece che Una riforma del genere, almeno per quanto riguarda, ripeto, l'interruzione volontaria di gravidanza, dovrebbe essere stata accompagnata da altro tipo di interventi, proprio per il ritorno sul discorso della dilagante obiezione di coscienza che noi abbiamo da parte dei medici e da parte delle strutture sanitarie. Quindi la sola modifica di questo aspetto sanzionatorio non mette a fuoco proprio il problema esistente oggi e che secondo noi aumenterà sicuramente la clandestinità. Allora, ferma qui perché io ho interrotto prima l'onorevole Moreni, quindi le ridò la parola perché deve finire il suo ragionamento e poi rispondere anche a questa sua obiezione aggiuntiva. Sì, grazie, la ringrazio Giannino. Volevo completare il ragionamento dicendo che probabilmente dovremmo fare una riflessione sul quantum di questa sanzione amministrativa. Io posso essere assolutamente d'accordo, magari potremmo essere noi donne del PD a proporlo come riflessione anche al governo, questo insomma non lo escludo. Dopodiché rispetto invece all'altro problema, e cioè quello dell'obiezione di coscienza, io diciamo seguo con particolare attenzione i temi delle politiche di genere, sia per diciamo una cultura e storia politica personale, ma anche perché ritengo che siano invece centrali nelle nostre politiche nazionali. E rispetto alla obiezione di coscienza e al tasso di abortività in Italia, certamente la signora Carano saprà che dall'83 in poi le interruzioni volontarie di gravidanza sono in diminuzione, sì, e che il tasso di abortività del nostro paese è tra i più bassi tra i paesi occidentali, che sappiamo anche che purtroppo il ricorso alle interruzioni volontarie di gravidanza avviene soprattutto da parte di donne straniere e che quindi hanno diciamo pressoché l'ignoranza della nostra legislazione e anche dei diritti che possono avere. Io devo dire che dall'ultima relazione che il Ministero della Salute ha fatto pervenire al Parlamento, poiché sapete che ogni anno una relazione rispetto sull'attuazione alla sulla 194, in generale possiamo dire che i tempi d'attesa sono diminuiti, anche se purtroppo c'è una variabilità tra le regioni, poiché i sistemi sanitari regionali non garantiscono un'uniformità, omogeneità a livello nazionale, e che comunque pur essendoci un tasso di obiezione di coscienza piuttosto alto, comunque le regioni riescono a garantire alle donne che naturalmente ne fanno richiesta anche di poter abortire in una struttura pubblica e di farlo insomma nei termini previsti dalla legge. Certo è che anche il Partito Democratico si è interrogato sull'alto numero di obiezioni di coscienza, tant'è che con una mozione per la firma Lenzi dal 2012 noi abbiamo chiesto appunto al Ministero della Salute di fare un monitoraggio costante con le regioni su appunto l'attuazione della 194, proprio per garantire in maniera omogenea su tutto il territorio naturale questo diritto sacrosanto della donna. E però le percentuali di prima dicono che secondo me qualche cosa bisogna inventare. C'è anche un altro punto che è sollevato nell'appello al Presidente del Consiglio delle Donne in Rete contro la Violenza, e lo tiro fuori perché fino a questo momento non ho dato il tempo e il modo a Titti Carrano di enuclearlo. Loro dicono si può fare qualcosa di più e di meglio anche per le risorse che nel 2013 e 2014 sono state pari a quasi 17 milioni di euro assegnate alle regioni per i centri antiviolenza sul territorio, anche perché per esempio i fondi per il 2015 risultano ancora bloccati. Che si può fare su questo, onorevole Moreni? Allora, intanto Titti Carrano sa che siamo passati da zero a tanto, nel senso che il governo Letta prima e poi Renzi ha messo risorse per le politiche di genere soprattutto rispetto anche ad una legge credo sacrosanta, che sia quella contro il femminicidio, che abbiamo oramai da un paio d'anni licenziato. Abbiamo messo in campo insomma diverse strategie, non ultima nella legge di stabilità abbiamo introdotto anche il cosiddetto codice rosa. Io sono colei che ha introdotto anche il braccialetto anti-stalker, come dire, ci occupiamo di diverse a 360 gradi delle politiche di genere. Le risorse che abbiamo messo sono più rispetto le pratiche dei governi precedenti. Io sono una che ritiene che non sono mai sufficienti le risorse per le politiche di genere, però comunque ad esempio a metà marzo so che il Dipartimento per le Pari Opportunità dovrà emanare un nuovo bando proprio anche per la distribuzione delle risorse. Speriamo, ma qui non si tratta di denegare i meriti di ciascuna parte politica, quindi della sua e del governo, si tratta semplicemente però, speriamo che questo appello appunto della donna del PD ci sia, perché io sono convinto che gli effetti non sono solo paventati, gli effetti di quella quantità di sanzione amministrativa possono essere esattamente quelli sollevati da questo appello. Comunque io ho sentito necessario fare una trasmissione su questo e quindi ringrazio i nostri due ospiti. Dico solo che le agenzie hanno appena battuto una notizia che ci fa tornare in Libia: i comando francesi sono sul terreno, sarebbero stati schierati a Bengasi nell'est della Libia per sostenere l'operazione.